Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come d'abitudine, in maniera un po' meccanica oserei dire, vi ricordo la nostra mail alla quale scrivere, unabusoalgiorno@radio24.it, e vi ricordo anche il mio blog sulla prima pagina del Sole 24 Ore online, Guardie o Ladri, lo trovate anche con un motore di ricerca. Allora, molti di voi sapranno che aumentano, si moltiplicano le possibilità di tentare la sorte, tentare la fortuna, giocare anche in rete. Oramai internet è uno strumento che consente non solo di informarsi, ma di fare ciò che più è piacevole. E devo dire che proprio grazie ad un radioascoltatore che ha mandato una bella e puntuale lettera, noi affronteremo il tema del gioco in rete, il gioco online. Sentiamo che cosa ci ha scritto il nostro radioascoltatore. Caro Galullo, oltre alle classiche scommesse sportive, da qualche tempo in internet è possibile cimentarsi anche con il poker e con i gratta e vinci online. Di questi ultimi, sui siti, sono presenti le versioni demo, che offrono la possibilità di provare la meccanica di gioco senza spendere alcunché. Mi sono incuriosito dal punto di vista informatico, in quanto ogni diversa variante del gratta e vinci online è realizzata mediante applicazioni flash e nella mia testolina si era accesa la classica lampadina. In natura, il caso è indipendente e imprevedibile per definizione, mentre in un programma informatico, per quanto ben realizzato, si accetta un'ottima approssimazione che tenda a simulare il più possibile la casualità, come questa dovrebbe sembrare, o il meno possibile, come leggerà più avanti. Bene, questa era la lettera di una persona che, ovviamente lo avrete anche capito, lui ad un certo punto lo scrive, è un esperto del settore e in questa lettera comincia ad elencare le sue puntate sul sito di scommesse online che è bwin.it, famosissimo. E cosa racconta? Ogni qualvolta lui prova ad entrare in queste dimostrazioni flash, come lui le chiama, questi demo, ebbene vince spesso, anzi spessissimo. Racconta ad esempio che il 15 dispari nero è uscito 7 volte, il 13 dispari nero è uscito 6 volte e così via, insomma con delle possibilità di successo e di vittoria che si avvicinano, spesso superano anche il 50%. Allora, per affrontare un po' il tema delle scommesse online, forse, come dire, di dimostrazioni che attirano e fanno credere più di quanto sia lecito attendersi, noi abbiamo chiamato a interloquire con noi ed è gradito ospite il dottor Carlo Gualandri, che è presidente e fondatore di bwin. Buongiorno Gualandri. Buongiorno. E poi abbiamo con noi la dottoressa Gabriella Salinetti, che è preside della Facoltà di Scienze e Statistiche all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Salinetti. Buongiorno. Allora, devo dire che la lettera è maliziosa, lei ce l'ha in mano perché l'ha ricevuta, Gualandri, e sottintende la facilità con la quale si può vincere. Visto che lei è una persona molto simpatica e di spirito, sono sicuro che avrà accettato questa provocazione. Assolutamente sì. Sempre, perché la chiarezza su queste cose è l'elemento centrale della fiducia del consumatore, quindi benvengano le provocazioni perché aiutano a spiegare e a capire meglio. Ecco, allora spieghiamo un po' com'è possibile che quando si va nei demo, insomma si vince spesso, poi quando si va invece in realtà a giocare sul serio, probabilmente le possibilità diminuiscono enormemente. Innanzitutto due precisazioni, una veramente minore: non sono il fondatore di bwin, sono l'amministratore, il presidente e l'amministratore delegato. Benissimo, comunque onore a lei che comunque presiede, diciamo, un'impresa. Certamente. Allora, la seconda precisazione importante è che esiste un impianto italiano nel mondo delle lotterie istantanee che vede lo Stato, che è il banco della lotteria, quindi è il gestore di ognuna delle lotterie che esistono in Italia, delegare a degli attori, nello specifico nel caso delle lotterie istantanee, al Consorzio Lotterie Nazionali la produzione della lotteria, che poi viene distribuita in tutti i siti di gioco online, come ad esempio Bwin, come è il caso del cliente che ha scritto la lettera. Certo. Dico questo perché ciò che stiamo per dire non è specifico di un sito italiano, ma è si applica alla generalità dei siti italiani. Quindi lei vuol dire che questo demo di cui ci parla il nostro radioascoltatore lo troviamo anche in altri siti? Esatto, tutto l'impianto delle lotterie istantanee in Italia è distribuito da tanti siti diversi, tra i quali Bwin, ma è prodotto centralmente dalla concessione esclusiva che lo Stato ha dato al Consorzio Lotterie. Questa è una dovuta assunzione di responsabilità che lei ci fa presente, ma veniamo al cuore del problema che il nostro radioascoltatore pone, che in sostanza è questo. Noi veniamo attratti, ci si fa credere che vincere è facile, ma poi in realtà così non è. Ecco, lei che cosa risponde a questa provocazione? Dico che potrebbe essere vero, nel senso che in una lotteria istantanea, una lotteria istantanea, diciamo, è una versione elettronica dello stesso prodotto, come se, gratta e vinci, che si può trovare in qualunque tabaccaio o edicolante, con la differenza che mentre se io prendo un biglietto e gratto ho consumato la reale giocata che stava dentro quel biglietto, mentre invece se sono sull'online posso creare una versione dimostrativa. E qui sta la questione: la versione reale di un biglietto gratta e vinci segue delle regole molto precise sulla distribuzione dei premi, il totale dei soldi che devono tornare indietro ai giocatori in questa forma, sia come somma complessiva, sia come frequenza, quindi come vengono divisi tra premi piccoli e premi grandi. Non altrettanto in Italia è regolamentata la produzione della versione dimostrativa, quindi mentre io posso dirle per certo ogni cosa della statistica del reale gratta e vinci, quando io quindi gioco con i soldi che cosa succede, e peraltro la credibilità statistica di quell'impianto è stata proprio certificata casualmente dal Dipartimento di Statistica dell'Università della Sapienza di Roma, in realtà a livello di regolamento italiano, delle leggi italiane, non esiste una specifica che dice come sono fatti i dimostrativi. Bene, abbiamo capito, ma mi pare di aver capito per certo che ci sia un po' di approssimazione nel demo che il Ministero, il Governo, lo Stato comunque consente di rimbalzare da un sito all'altro, perché alla fine il cuore del discorso è proprio quello che ci ha fatto il nostro radioascoltatore, cioè si è indotti a credere che giocare e vincere sia estremamente facile. Professoressa Salinetti, c'è un abuso dell'ingenuità popolare a suo giudizio? C'è un abuso da parte dello Stato nel non regolamentare come si deve? Questo, ecco, lei come vede questa bella informazione che ci ha dato il nostro radioascoltatore? La vedo in modo preoccupante, così come vedo in modo preoccupante che lo Stato non si preoccupi, diciamo così, di porre in chiaro le regole e tutto quello che ci sta dietro, perché magari questo consentirebbe anche di maneggiare un pochino la probabilità e non farsi illusioni. Perché ovviamente le probabilità, anche se immagino nei giochi online ci sia un meccanismo generatore di numeri casuali che determina il risultato. Quindi certo, entro certi limiti corrisponde, come posso dire, alla casualità pura. Quello che dovrebbe essere noto sono le probabilità con cui certi risultati vengono fuori, cioè dovremmo imparare a maneggiare queste cose per non cadere nelle illusioni. Ecco, ma le chiedo questo, senza ovviamente entrare nel merito della società che mette online un demo, perché come abbiamo sentito questi demo, queste dimostrazioni di gioco sono traslati a chi poi li mette in rete da un soggetto che è il soggetto appunto Stato, ma a suo giudizio dovrebbe esserci un'autorità anche garante pronta a intervenire su queste vicende, oppure tutto viene lasciato alla buona volontà dei singoli? No, dovrebbe esserci assolutamente un'autorità garante di tutto questo. Ecco, quindi su questo non ho dubbi. Io direi, cara professoressa Salinetti e caro Gualandri, che possiamo concludere così questa nostra puntata. Giocare è sicuramente lecito e doveroso, fa parte della natura dell'uomo, però attenzione, perché il calcolo delle probabilità non è così, come dire, appetibile e appetitoso come lo Stato spesso, magari in maniera diretta o furbetta, tende a farci credere. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio in regia Pietro La Corte, in studio Antonella Migliaccio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.